Linee d'ombra di Matteo Caccia. Lui ha favorito una fuga all'estero. Quindi la fuga all'estero era determinata da un'accusa che aveva sto tizio in Italia. Non so se nel mio comportamento possa configurarsi qualche reato. Se lo è stato, spero che sia caduto in prescrizione. Cosa non si fa per gli amici? Storie di amicizie pericolose e indagini sbagliate in una puntata che si intitola Costituirsi. Mi chiamo Charles Hirsch Berris. Ho scritto canzoni pop. Sono stato un produttore televisivo. Sono responsabile di aver inquinato l'etere con spettacoli puerili e rimbecillenti. Per di più ho assassinato 33 esseri umani. Sono condannato all'inferno. Confessioni di una mente pericolosa. Un'autobiografia non autorizzata di Chuck Berris. È l'inizio di un film molto bello, il primo film come regista di George Clooney. Si intitola Confessioni di una mente pericolosa. È la storia di quest'uomo che si chiama Chuck Berris, che è stato un conduttore televisivo e ha scritto questa sua autobiografia. Ha avuto una vita molto controversa, ha avuto rapporti con la CIA e sosteneva di avere ucciso 33 persone proprio negli anni della Guerra Fredda, anche come sicario per la CIA. Insomma, è un bel film, se avete voglia di vedere. È un film del 2002, ma è un film comunque molto bello, che tiene tutti gli anni che ha. Abbiamo aperto con questa citazione perché la puntata di oggi ha un titolo particolare, si intitola Costituirsi. Oggi vi raccontiamo due storie ben precise. La prima è quella di un nostro ascoltatore, come sempre facciamo, cioè apriamo con una storia vostra che ci mandate a lineedombra@radio24.it, che racconta di un amico che va a costituirsi dopo che ha favorito, è stato diciamo ha aiutato un delinquente a commettere un delitto. Era una cosa grave all'epoca, lui aveva semplicemente coadiuvato una fuga in realtà, e infatti poi il carcere che sconta è una pena di 5-6 mesi, ma non è questa la storia che ci racconta il protagonista. Ci racconta il suo lato. Lui è un amico di questa persona e fa una cosa piccola, ma che lui considererà un grande gesto di amicizia nei confronti di questo amico che aveva fatto questa stupidaggine. E poi vi raccontiamo un'altra storia, perché oggi è il 10 di luglio e ricorre il triste anniversario di un avvenimento che tutti conoscono come il delitto dell'Olgiata. Era il 10 luglio del 1991, erano 29 anni fa, quando veniva trovata morta in casa sua Alberica Filo della Torre, che era questa nobile donna, questa contessa romana, che veniva trovata morta, strangolata e uccisa nella sua stanza da letto, in casa, con la casa piena di gente, la servitù e i figli. Questo è stato uno di quei casi che facevano parte dei delitti estivi. Non si capiva per quale motivo, ma in qualche modo succedeva che ogni estate, ma era chiaramente la stampa che trasformava questi omicidi nel giallo dell'estate, e ogni estate io mi ricordo, ero in vacanza con i miei genitori e mio padre era appassionato di queste cose, ogni giorno comprava il giornale e sentivo questi nomi. Non sapevo le storie, ma sentivo questi nomi che venivano ripetuti continuamente. Io nel 91 avevo 16 anni e mi ricordo il nome Alberica Filo della Torre, e mi ricordo di questo delitto che era irrisolto. Ebbene, è stato irrisolto per 20 anni, fortunatamente poi non si è costituito l'omicida, ma è stato trovato grazie ai test del DNA e grazie alla alle migliorie che sono state apportate ai test del DNA e alla tecnologia dell'indagine che la polizia ha potuto fare. A 20 anni di distanza quell'omicida è stato trovato. Ma non voglio raccontarvi di più, vi lascio alle storie che abbiamo raccolto e che raccontiamo per voi in questa ennesima puntata di Linee d'Ombra. Vi ricordo che per tutta l'estate continuiamo la raccolta di storie che hanno a che fare con un confine, una linea di passaggio. Ebbene, se ne avete da raccontarcele, lineedombra@radio24.it. altrimenti mettetevi comodi, noi cominciamo a raccontare. Oggi, quando succedono reati che vedono coinvolti amici veri, nella qualità di complici, non mi permetto di giudicare, perché molte cose ad una certa età passano da stati d'animo diversi rispetto a quelli etici. La mia storia parla di questo e comincia in un giorno d'estate del 1979. Ero al mare con tutta la mia comitiva e dopo aver fatto un lungo bagno e mangiato un panino, accompagnato da una bella birra fresca, ci siamo stesi sui teli a prendere il sole in riva al mare. Chi chiacchierava con l'amico a fianco, chi con la ragazza, io ascoltavo la mia radiolina con le mie immancabili cuffie. Alle 17 ho ascoltato le notizie del giornale radio e alla fine ho commentato una notizia di cronaca riguardante un ricercato italiano che era stato catturato nell'America centrale, dove si era recato per sfuggire ad un mandato di cattura per reati di una certa gravità. Piero, che mi stava accanto, sobbalzò, chiedendomi conferma di quanto avevo appena detto. Naturalmente io risposi di sì. Dopo qualche minuto lui raccolse le sue cose dicendo che si era ricordato di un impegno in città e andò via. Dopo qualche ora rientrammo tutti a casa. Ma appena mi ricordo se era un giorno festivo, si lavorava tutti bene o male. E quel giorno ci siamo andati al mare che era estate piena. La mattina dopo comprai il giornale e lessi che il famoso latitante era stato catturato e che era stato individuato in Piero, un suo complice, nella fuga all'estero. Io rimasi esterrefatto. Non sapevo cosa pensare. Naturalmente mi vidi con gli amici e sentiti i genitori di Piero, avevamo la conferma che non c'era alcun dubbio sul suo coinvolgimento nel fatto, almeno per quanto riguardava la polizia. Piero frattanto si era dato alla macchia e veniva ricercato. La solidarietà, giusta o meno che fosse, di noi amici si cominciò a smuovere e dopo un po' di tempo venimmo a sapere dove era nascosto. Naturalmente lo andammo a trovare. In una delle tante occasioni ci disse che aveva maturato l'idea di costituirsi per una certa data. Non ci restò allora che organizzare una spaghettata proprio alla vigilia del suo arresto. Fatta la spaghettata, che apparentemente era allegra, si passò ai saluti, augurandoci di vederci presto in libertà. Piero, prima di congedarci, rivolgendosi a tutti noi, disse di avere un unico bisogno. Era non passare la notte da solo. Io non ricordo con precisione quanti fossimo, forse 5 o 6, e ognuno trovò una scusa nel non dare la propria disponibilità. Mi offrii io, così tutti gli altri andarono via. I love the world, sometimes it loves me. The love of my life is humanity. The rich and the poor, the broken and whole, all come together. Feeding the soul, each one belongs at this feast. Drink to the pleasures and drink for the pains. Drink for the losses, drink to the gains. The humble, the twisted, the proud and the grand. The sinner, the sinned against, this is my stand. Each one belongs at this feast. Come and be at this table. Come and take what is mine to share with you. And if you're able, you must give what is thine to give, thine to give forever. Living as one. non è che io fossi il più coraggioso o il più intraprendente o il più guascone, anzi ero sicuramente il più mite della compagnia e il meno coraggioso, ma ad un amico non si poteva negare la cortesia che aveva chiesto. Dentro di me ero preoccupato. Se avessero scoperto il nascondiglio, sarebbero stati guai grossi, anche per me. Non ricordo di che cosa parlammo quella sera, ma ricordo con sicurezza che non abbiamo dormito più di un'ora. Al mattino mi chiese se lo accompagnavo all'appuntamento che il suo avvocato aveva concordato con il vicequestore, ed io entrai di nuovo nella paura. Mi preoccupava il fermo casuale di qualche pattuglia che avrebbe fatto saltare l'accordo e quindi il possibile mio arresto. Per fortuna tutto andò liscio e lo lasciai al bar dove lo stavano aspettando. Il poliziotto mi scrutò dalla testa ai piedi e io gli lessi nel pensiero. E questo da dove è sbucato? Comunque, per me, finì tutto lì. Tra l'avvocato e la polizia che hanno fatto una... Come lo fanno ora, insomma, quando dicono che è stato circondato dalle forze dell'ordine, l'hanno beccato, non è vero niente. Si mettono d'accordo, fanno il caso clamoroso per prendere un po' di spazio sui giornali, ma poi sotto sotto c'è l'accordo. Andai a trovarlo in carcere solo una volta, perché il numero degli ammessi al colloquio era limitato, e volendolo tutti andare a trovare, occorreva mettersi in lista. 5 o 6 mesi dopo, non ricordo bene, alle 3 del pomeriggio squillò il telefono. Era Piero, che da una cabina telefonica fuori dal carcere mi avvisava che era stato liberato. Io ero stanchissimo avendo fatto un turno lavorativo notturno e poi tutta la mattina in giro e quasi non capii, chiudendo il telefono. Gli dissi solamente «Bene». Il tempo di rendermi conto dell'evento, misi un paio di pantaloni e in 2 minuti arrivai all'uscita del carcere. Piero era ancora lì. Io mi scusai dicendo che ero molto stanco da rispondere quasi dormendo e non mi ero reso conto della bella notizia. Mi proposi di portarlo a casa, ma nel frattempo era arrivato il padre. La vicenda giudiziaria è finita che Piero è stato condannato, mi sembra, a 6 mesi. Non so se poi nei vari gradi di giudizio la pena sia variata. Il bello è che colui che lui aveva favorito è stato assolto in appello. Siamo ancora amici, io e Piero. Non ci vediamo con la stessa frequenza, avendo famiglia, figli e impegni vari, ma l'affetto è rimasto inalterato. La puntata di oggi, che è una puntata magnifica e ha una storia magnifica, che è la storia di Demetrio, si intitola Costituirsi e avete tra l'altro anche capito perché, ovviamente il racconto di Demetrio va esattamente in quella direzione. Io vorrei saperne di più, devo capire quanto Demetrio me ne può raccontare di più. Pronto, ciao, buongiorno! Buongiorno, ciao! Come stai? Bene, bene. Bene, bene, bene. Senti, Demetrio, questa storia risale a tantissimi anni fa, vero? Sì, 40 anni. 40 anni fa, quindi eri un ragazzino. Ah, no, tanto un ragazzino, no, giovanotto. Quindi adesso sei un uomo fatto e finito. Ne ho 70, Matteo. Ah, beh, però hai una voce giovanissima. Cerco di di tirare avanti. Senti, io vorrei partire da una cosa che tu scrivi, Demetrio, molto precisa. Tu dici: la vicenda giudiziaria è finita che Piero, che era questo tuo amico, che immagino sia un nome di fantasia, Piero, è stato condannato a 6 mesi. Il bello è che colui che ha favorito è stato assolto in appello. Che cosa vuol dire? Chi ha favorito cosa? Ecco, chi non te lo posso dire. Lui ha favorito una fuga all'estero. Ah, ok. Quindi la fuga all'estero era determinata da un'accusa che aveva sto tizio in Italia. Ok. Ah, e ho capito. Quindi in pratica quello che è veramente scappato all'estero è stato assolto. E invece Piero si è preso la condanna. Sì, perché di fatto lui la cosa l'ha fatta. Ho capito. È quello che non l'ha fatta. Quello, voglio dire, per l'accusa principale è stato assolto. Poi magari perché è andato all'estero in modo clandestino, vabbè, non lo so come gli è finito. Senti, che tipo di ragazzi eravate a quell'epoca? Eravate ragazzi normali oppure eravate un po', come dire, rock and roll? No, ma non sai, qui da noi i ragazzi rock and roll non è che ci siano tanti. Eravamo tranquilli, Okay. Invece mi dici, sì. Mi dici qual è stato, tu hai corso realmente un rischio passando la notte con lui? Penso di sì, perché in teoria io non so come potrei inquadrarmi, l'avrei aiutato, per la giustizia l'avrei aiutato. Ah, tu saresti tipo, ho capito, cioè avresti aiutato a nascondersi in teoria. Sì, non so quale reato avrei commesso, però di fatto l'avrei aiutato, anche se non l'ho aiutato, gli ho fatto solo compagnia, non ho fatto niente. Chiarissimo. Senti, per quale motivo lui a un certo punto ha deciso di costituirsi? Te l'ha raccontato? Sì, è stata un po' una decisione, è perché non aveva senso stare ancora, era una cosa che poteva essere marginale, ma come ti ho scritto, c'era un accordo fra il suo avvocato e la pubblica sicurezza, diciamo. Ah, ok. Ma poi non è che fosse così grave la sua posizione, non è che poteva stare a vita, non ha senso stare a vita per un reato minore latitante chissà per quanto tempo. Ma non mi vuoi dire che tipo di reato era questo? Cioè non ce lo vuoi dire? Politico. Che anni erano, scusami, ricordamelo? 1979. Senti, Piero lo vedi ancora? Vi frequentate ancora? Sì, no, ci facciamo gli auguri a Natale, a Pasqua, ci sentiamo ogni tanto per assicurarci sullo stato di salute, perché siamo più ragazzini, ma okay. Frequentarci no. Però sta bene, anche insomma. Sì, abbiamo tutta famiglia, quindi sai com'è. Tu sei giovane ancora, non so se sei in questo. Mica tanto Demetrio, io ho 45 anni, quindi sembro giovane. Ci sei. ci sono. Senti, ti ringrazio moltissimo per la storia e per la chiacchiera, anche se un po' concisa, però capisco che ci siano delle cose che è difficile raccontare. Sì, anche perché per un senso di delicatezza nei confronti del mio amico. Sai, perché nel tempo poi ha avuto sempre noia per questa storia. Ogni tanto andavano a rompergli le scatole, perché uno quando si macchia di qualcosa gli rimane poi indelebile, non è un po' difficile. Certo, anche perché lui è rimasto a vivere lì, dove vivi anche tu, non è andato in un'altra città o in un'altra regione. No, ma poi ha fatto una vita tranquilla, ha lavorato, beh. Però ogni tanto... Viene fuori, la storia viene fuori. Sì, adesso forse qualche anno fa sì, l'ho incontrato e detto ogni tanto vengono a rompermi l'anima. Però poi non si lamentano. Demetrio, ti ringrazio molto per la storia e la chiacchierata. In bocca al lupo per tutto e passa una buona estate. Grazie anche a te, ciao. A presto, ciao. Grazie mille. Su, mettiti comodo come in un condor che scorrono momenti lenti più del Big 20 Commodore. Sulla tela la tua vita intera con un prologo. Tua madre che apre le gambe dal ginecologo. Poi le tasche deserte di un bimbo povero ma ingorto di scoperte più di Colombo Cristoforo. Il tuo primo rimprovero poco dopo avevi appiccato un fuoco per gioco come un tetoforo. Da quel giorno la tua lingua in sciopero. Hai detto no, non topero, però io ti ricorderò che sei stato picchiato da quei balordi e sotto i colpi sordi ti sei detto non discuto, muto, un concorrente a tempo scaduto, abbattuto come un cane da tartufo che ha perduto fiuto, chiederti di raccontare l'accaduto sarebbe come per Cesare chiedere aiuto a Bruto. La verità è là, non devi negarla, ti tocco la palla, non resta a galla, ho la tua bocca libera e la favella come una farfalla che si libera dalla calla. I mutismi sono inascoltabili, timori hanno timoni deboli, urla termini interminabili, perché il silenzio è dei colpevoli. La riconosci quella? È la tua panda. Dentro ci sei tu con la coscienza sporca ed un profumo che sa di lavanda. Dille alla fidanzata che ti guarda che c'è un'altra che alla quarta e pratica il tantra. Gli anni 90 vanno a rallentatore. Un fotogramma in fiamma sto proiettore. Tuo padre Bama, un figlio dottore. E passi gli anni al campus come un detenuto a San Vittore. Ammutolendo ti credi di restare in piedi, ma non ti chiami il colino e quantomeno siedi. Spesso cerchi seri che offuschino i pensieri. Sì, ma non ti eclissi, ti celi dietro peli. Come vedi stenti, ne sprechi di momenti. Silenzio in cuore, tu lo svendi e peggiora offerenti. Parla fuori dai denti, non ti penti. Parla nei parlamenti, mettili sugli attenti. La verità è là, non devi negarla. Ti dopo la palla, non resta a galla. Dalla tua bocca libera la favela. Come una farfalla che si divaga la calla. I mutismi sono inascoltabili. I timori hanno timoni deboli. Urla termini interminabili. Perché il silenzio dei colpevoli. Demetrio ci ha raccontato evidentemente quello che si sentiva di raccontarci, quel po' che evidentemente lo fa sentire al riparo rispetto a questi fatti che sono accaduti appunto 40 anni fa, quindi immagino non ci sia, ma soprattutto immagino lui non abbia commesso alcun reato nell'aver semplicemente dormito la sera prima con un amico, ma tant'è, non sono un legale, non sono un avvocato, anzi probabilmente qualcuno potrebbe scriverci invece a lineedombra@radio24.it se c'è stato un reato, giusto così per curiosità. Comunque ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linea d'Ombra. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento Linee d'Ombra. Fa caldo a Roma in quella mattina estiva del 10 luglio del 1991. Alberica Filo della Torre è una bella donna di 42 anni, ha un carattere forte e schietto. Talvolta è dura, soprattutto con il suo personale. Ma, dirà il marito in seguito, è anche molto generosa. Apparteneva al ramo dei conti di Torre Santa Susanna della nobile famiglia napoletana Filo ed era stata sposata in prime nozze con Don Alfonso de Liguoro dei Principi di Presicce, matrimonio dichiarato nullo dalla Sacra Rota, e in seconde nozze con l'imprenditore Pietro Mattei. Era madre di due figli, Manfredi e Domitilla. Nella villa sontuosa, a nord di Roma, una zona soprannominata Olgiata, nella quale i due abitano, fervono i preparativi. La coppia proprio quella sera deve festeggiare 10 anni di matrimonio. C'è un viavai continuo, finestre aperte, uomini e donne al lavoro, ma non ci sarà nessun party quella sera. Il 10 luglio del 1991, esattamente 29 anni fa, avveniva un efferato delitto passato alla storia come il delitto dell'Olgiata. In questa puntata, che si intitola Costituirsi, la seconda storia è quella che racconta quel giorno. Seguiteci lungo le linee d'ombra. La mattina del delitto, la contessa si trovava nella sua abitazione dell'Olgiata mentre il marito era al lavoro. Nella villa erano presenti i due figli, due domestiche filippine, la babysitter inglese e 4 operai che stavano adibendo l'abitazione per ospitarvi la festa d'anniversario di nozze dei coniugi Mattei, che era prevista per quella sera stessa. Tra le 7 e le 7.30 del mattino alla villa cominciano i preparativi per la festa della sera. Nel frattempo si svegliano anche la contessa e i due bambini, secondo la testimonianza della cameriera. È lei stessa a portare la colazione alla donna verso le 7.45, prima poi di tornare in cucina. Sempre secondo la teste, la contessa scenderà al piano inferiore verso le 8.30 per poi rientrare in camera un quarto d'ora più tardi. Dalla sua stanza la contessa non uscirà viva. Verso le 9.15 la domestica e la piccola Domitilla bussano una prima volta alla porta della stanza chiusa dall'interno, ma non ottengono risposta. Più tardi, verso le 10.30-11, secondo la stessa testimonianza, Violetta Alpaga, la cameriera e la bambina tornano a bussare alla camera, anche stavolta senza risultato. Trovano una seconda chiave e riescono a entrare nella stanza dove rinvengono il corpo della donna, riverso verso terra, con le braccia aperte in una posizione di resa e con la testa avvolta in un lenzuolo insanguinato. La stanza è messa a soqquadro. Nessuno ha visto o sentito nulla. Ma com'è possibile che qualcuno possa introdursi nella stanza di una casa gremita di persone, perpetrare un omicidio così cruento e fuggire alla luce del giorno? Dalla stanza risultano mancare numerosi gioielli, ma gli inquirenti, anziché al movente della rapina, si concentrano inizialmente sull'ipotesi del delitto passionale, ma l'idea muore nel giro di una giornata. Per i carabinieri invece l'assassino deve essere individuato subito con qualcuno che la vittima conosceva e di cui si fidava, qualcuno in grado di entrare nella villa e muoversi pressoché indisturbato, nonostante l'affollamento di quella mattina. Trovandosi il marito della vittima già in ufficio durante il delitto, i primi sospetti si incentrano su Roberto Iacono, figlio dell'insegnante privata dei bambini di casa Mattei, un giovane con alcuni problemi psichici che viene inquisito per alcune macchie di sangue rinvenute sui suoi pantaloni, ma l'esame del DNA lo scagiona. Dopo Iacono, i sospetti si spostano su Manuel Winson, un cameriere filippino licenziato poco tempo prima, ma anche lui è scagionato dalle analisi del DNA che non conseguono risultati. Nell'autunno del 1991, mesi dopo, visto l'apparente arenarsi delle indagini, il PM decide di sospenderle. Nell'ottobre del 93, due anni dopo, le indagini relative alla scoperta di una serie di fondi neri riporta in auge per la stampa il delitto dell'Olgiata. Indagati sono vari componenti dei servizi segreti per costituzione di fondi privati tramite i fondi riservati del SISDE, tra cui Michele Finocchi, un amico della famiglia Mattei Filo della Torre. Le indagini per un po' vanno in questa direzione, ma si arriva a una pista morta scoprendo che i coniugi ignoravano l'appartenenza ai servizi di quell'amico. Ma la pista finanziaria porta il PM a scoprire alcuni conti bancari svizzeri intestati ad Alberica. Nel 96 gli investigatori, tramite rogatorie finanziarie internazionali, cercano di venire a capo dell'intricato assetto di conti finanziari intestati alla contessa, che portano a scoprire ingenti trasferimenti di denaro dalla Svizzera al Lussemburgo. Ma le indagini accertano che non sussiste alcuna anomalia nei conti della contessa o del marito. Nel gennaio del 2007, però, 16 anni dopo, il caso viene riaperto a seguito di un'istanza di Pietro Mattei, vedovo della donna, che chiede ulteriori analisi del DNA alla luce delle nuove tecniche investigative su tutti i reperti e in particolare sul lenzuolo che venne utilizzato per strangolare la vittima e sul Rolex che indossava la moglie. Ci vogliono però altri anni perché il PM Francesca Loi affidi a RIS il compito di analizzare i reperti. Sull'orologio e sul lenzuolo vengono stavolta trovate tracce di Manuel Winson. Inoltre il PM Francesca Loi, riesaminando tutti gli atti dell'indagine, si avvede che l'assassino avrebbe potuto essere assicurato alla giustizia subito dopo il delitto se soltanto, a suo tempo, fossero state ascoltate tutte le registrazioni delle telefonate di Winson. La procura, infatti, a suo tempo aveva disposto l'intercettazione delle sue telefonate, ma aveva omesso di ascoltare la registrazione del colloquio dello stesso con un ricettatore, al quale intendeva vendere i gioielli trafugati alla contessa. Quella registrazione, che costituiva una prova certa della sua colpevolezza, rimase inascoltata per 20 anni negli archivi della procura. Il 29 marzo del 2011, 9 anni fa, la prova del DNA sui reperti accerta in modo che gli inquirenti considerano definitivo la presenza di tracce biologiche di Manuel Winston, il cameriere filippino licenziato poco tempo prima del delitto, già inizialmente indagato. Arrestato subito dopo il risultato degli esami in base al pericolo di fuga, confessa il 1 di aprile. Dopo la confessione, Winston, che è stato poi condannato a 16 anni di carcere, ha dichiarato: «Mi tolgo un peso che mi porto dietro da 20 anni». 0111001 0111 my backflip. Osama, Zama, Boko, Osama, kiss me. Ecco, questo è uno di quei delitti che fortunatamente è stato risolto, uno di quei casi che è stato risolto, certo, con 20 anni di distanza, e come dice lo stesso assassino, il colpevole, lui si è tolto un peso, figuriamoci tutti gli altri, figuriamoci la famiglia di Albericafilo della Torre. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linea d'Ombra. Come prima, più di prima, t'amerò. Prima di rinnovare l'assicurazione auto, vai su prima.it e scopri se puoi risparmiare. Calcola un preventivo in 30 secondi e scegli la comodità del pagamento mensile. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Fai click su prima.it. Come prima, più di prima, t'amerò. Linee d'ombra. Chiudiamo la nostra settimana di serialità, la nostra settimana con la storia seriale che vi stiamo raccontando da un paio di settimane, che è la storia di Antonina Zoti e la storia di suo papà Nicola Zoti, una delle prime vittime di mafia del secondo dopoguerra, ucciso nel 1946, freddato da 5 colpi di pistola alla schiena. Lui aveva poco più di 30 anni e Antonina ne aveva 4, era una bambina, ma ricorda tutto e ce lo racconta. Lo ha raccontato in un libro, in un diario che ha consegnato all'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, che ce l'ha fatto conoscere. Il libro è stato pubblicato alla Terra di Mezzo e noi ora vi stiamo raccontando la sua storia, grazie a Mauro Pescio che l'ha contattata e alla sua gentilezza, per cui ci ha raccontato passo dopo passo questa storia. Sentite la sua voce in ogni puntata di Linee d'Ombra. In questa storia, come vi ho già raccontato, vengono fuori delle trame che non sono solo quelle dell'uccisione di mafia, ma vengono fuori delle trame davvero difficili da comprendere per quest'epoca. E probabilmente parlo da piemontese che vive in Lombardia, probabilmente anche in questo angolo di Italia sono difficili da comprendere. Ad esempio, la vergogna di essere figli di un padre ucciso dalla mafia, una vergogna dovuta al fatto in quell'epoca che, come racconta Antonina, se se ne fosse stato zitto, se si fosse fatti i fatti suoi, questa cosa non sarebbe successa e non avrebbe lasciato da soli moglie e figli. Quindi era davvero una colpa. E nell'episodio che vi raccontiamo oggi c'è un passaggio terribile legato a Antonina, che si trova davanti al prete per fare la comunione. La reazione del prete lascia senza parole. E poi ci sono delle figure che escono da questo racconto, la figura del gabellotto, ad esempio, che erano coloro che riscuotevano la gabella, cioè erano nel fondo agricolo che caratterizzava la Sicilia agricola di quegli anni e di tutto il XIX secolo e della prima metà del XX secolo. Il gabellotto era colui che non era un mezzadro, cioè non lavorava la terra, non era nemmeno il proprietario della terra, ma era appunto colui che aveva in affitto quel terreno e lo dava da lavorare al mezzadro, ed è stata la figura, mi racconta chi di mafia ne capisce, è stata la figura intorno a cui è nato il concetto di capomafia e di gestione del potere, che è nato appunto in campo agricolo. Però appunto non sono un esperto del genere, quindi rimango semplicemente sulle mie e vi faccio sentire questa storia. Appunto è la storia di Antonina, che a un certo punto decide insieme alla madre di andare a studiare. Lei vuole diventare una maestra, vuole diventare un'insegnante, e la mamma, e lo racconta bene in questa storia, a un certo punto le dice: farò di tutto, ma tu studierai. Finalmente io fui accettata in un collegio, non sapevamo a quale, ma a me poco interessava. Quello che mi interessava era che mi preparassero agli esami d'ammissione e la scuola, che potessi frequentare lì la scuola media. Venne accettata al collegio di Maria di Misilmeri, che dista da Baucina un 18 km 20, quindi relativamente vicina. All'età di 10 anni andai in collegio anch'io. Volevo diventare maestra, lo dicevo sempre. E già nei miei giochi infantili assumevo quel ruolo con grande serietà e autorevolezza. Quando frequentavo la quinta elementare, le mie compagne di classe, che intendevano continuare a studiare, andavano a lezione privata da una professoressa che le preparava gli esami di ammissione alla scuola media. La mamma non poteva permettersi tale lusso, né mai mi avrebbe mandato da quella professoressa, tra l'altro senza titolo, imparentata con il gabelloto che aveva minacciato mio padre. Ma io volevo assolutamente continuare a studiare. «Non ti preoccupare», mi rassicurava lei, «mi impegnerò gli occhi, ma studierai». Dopo mesi la richiesta venne accettata. Anzi, chi l'aveva esaminata, volendo ridurre i disagi che la mamma avrebbe dovuto affrontare per le periodiche visite, si era pure preoccupato di destinarmi a un istituto piuttosto vicino al mio paese, il collegio di Maria di Misilmeri. Pensare al distacco dalla mamma era atroce. Passammo notti insonni strette l'una all'altra. «Ma non della separazione», mi parlava lei, bensì del mio futuro di maestra. Prima di andare in collegio, mamma volle che facessi la prima comunione. In quel momento io avevo usato troppo, la mamma aveva usato troppo, perché non si è mai detto che una bambina da sola si presenta e si va a fare la prima comunione. Certo. I bambini devono essere preparati, c'è un lungo periodo di preparazione, sì. Devono superare anche un esame di verifica se tu conosci le preghiere, sì. E tutto questo io sono sfuggita. Fu una decisione improvvisa e quasi un segreto tra me e lei. Seguivo il catechismo insieme ad altre bambine del paese, ma il giorno in cui presi l'ostia per la prima volta non c'era nessuna delle mie compagne. La mamma, temendo un rifiuto, non aveva informato l'arciprete. Mi ero nascosta tra le vecchiette in un angolino, fino al momento della comunione, non mi sono lasciata vedere da nessuno. Solo dalle vecchiette accanto a me. Ma quando arrivò il mio turno, venni scoperta. Il prete, lo stesso prete che aveva impedito al feretro di papà di ricevere la benedizione in chiesa, si fermò con l'ostia in mano e mi disse: «Tu che ci fai qua?». Io non avevo nulla da rispondere, niente, ero rossa, ero pietrificata, avrei voluto sprofondare. Allora la zia Santina gli disse: «E dai la comunione alla piccola». Lui mi allungò l'ostia sbrigativamente e me ne tornai al posto. Ho trattenuto però le lacrime. Non volevo dargli questa soddisfazione a nessuno dei presenti e tantomeno a lui. Ma quando sono tornata a casa, sono scoppiata in un pianto a dirotto. Mi sono arrabbiata con mia madre, che aveva permesso questo. Certo. Sono arrabbiata, come hai potuto? Il prete ha fatto questo, quello e quell'altro, e tu non c'eri, ero sola, no? Insomma, tutto quello che potuto. Però ormai era andata così. Era fatta. La mamma aveva sicuramente le sue buone motivazioni. Capii dopo che la sua decisione, che io avevo subito come una violenza, era stata dettata sia dall'esigenza di togliersi il pensiero prima della mia partenza per il collegio, sia dal non volermi esporre al confronto con le altre bambine che quel giorno avrebbero sfoggiato un vestito adatto all'occasione. You're sleeping night and day. How do you do it? Me, I am wide awake. defeated. I say your name. I say I'm sorry. I know it's not working. I'm no holiday. It's nobody's fault. No guilty party. We just got nothing. Nothing left to say. Another year. Summer of love. I don't know why I care. We miss it every summer. I say your name. I say I'm sorry. I'm the one doing this. There's no one. Nobody's fault. No guilty party. I just got nothing. Nothing left to say. It all. Continua ancora la storia di Antonina Zoti, continuerà la prossima settimana. Vi ricordo però che se volete riascoltare quelle che sono state le storie di questa settimana di Antonina Zoti, potete farlo domani sera alle 21.30 nello speciale del sabato di Linee d'Ombra che riassume le 5 puntate della settimana, oppure potete recuperare la nostra storia seriale online su internet attraverso il nostro sito radio24.it, la pagina di Linee d'Ombra. Grazie a lei, grazie a Mauro Pescio che raccoglie e racconta la nostra storia seriale, compresa questa, grazie all'archivio dei diari che ci permette di raccontarla tutti i giorni, e poi a tutti quelli che rendono possibile Linee d'Ombra: Anita Panizza, Paolo Corleoni e Luca Micheli. Io vi auguro un ottimo fine settimana, continuate a scriverci, noi continuiamo la nostra raccolta di storie anche durante tutta l'estate per tornare poi a settembre con un bacino di storie sempre più ricco. Linee d'Ombra, @radio24.it. Ci sentiamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!